ti ho rivelato il segreto. Il cervello, massima espressione del creato, emula la creazione con stati fisiologici mestruali di assestamento psichico. Tu sei il prescelto, ti chiamerò ristretto e canterai per me la gioia della rinascita. Sto quasi a rimanere senza cervello, che bello, mi si è ristretto tutto il mio cervello. Io non so perché me si restringe il cervello, me si restringe il cervello, me si restringe. Cervello, che bello, cervello, che bello, I'm staying to remain without the brain. It's beautiful, I'm staying to remain without the brain. I don't know the way that I restrict my brain, that I restrict my brain, that I restrict. Cervello, che bello, cervello, che bello. Dai, rilassati, che vita, gioca bene la partita. Sei ristretto, non ti preoccupare. Cervello, che bello. C'è qualcosa che fa male, che non riesci a controllare. Devi solo prendere o lasciare. Cervello, che bello, cervello, che bello. Sto quasi a rimanere senza cervello, che bello, mi si è ristretto tutto il mio cervello. Io non so perché me si restringe il cervello, me si restringe il cervello, me si restringe. Cervello, che bello, cervello, che bello, I'm staying to remain without the brain. I'm staying to remain without the brain. I don't know the way that I restricted my brain, that I restricted my brain, that I restricted. Cervello, che bello, cervello, che bello. È l'enigma della vita che ti lancia un'altra sfida. Il cervello si sa programmare. Cervello, che bello. Passo avanti devi fare per riuscire a respirare. Devi solo prendere o lasciare. Cervello, che bello, cervello, che bello. Sto quasi a rimanere senza cervello, che bello, mi si è ristretto tutto il mio cervello. Io non so perché me si restringe il cervello, me si restringe il cervello, me si restringe. Cervello, che bello, cervello, che bello. Quasi a rimanere senza cervello, che bello, mi si è ristretto tutto il mio cervello. Io non so perché me si restringe il cervello, me si restringe il cervello, me si restringe. Cervello, che bello, cervello, che bello, I'm staying to remain without the brain. I'm staying to remain without the brain. I don't know the way that I restricted my brain, that I restricted my brain, that I restricted. Cervello, che bello, cervello, sto bello. Cervello, che bello, cervello.